9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, che oggi martedì 18 gennaio Santa Margherita d'Ungheria non si dedicherà al tema che avrei scelto oggi di giornata. Dirvi la verità, la richiesta del pubblico ministero di 120 milioni di euro sequestrati a 4 grandi banche straniere ancora per la vicenda Parmalat, il più grave scandalo finanziario della storia italiana, e che si aggiungono ai miliardi già recuperati da quel straordinario galantuomo che è il prima commissario straordinario e poi amministratore delegato di Parmalat, cioè Enrico Bondi. No, noi dobbiamo occuparci inevitabilmente della vicenda delle notti di Arcore. Questa è la dizione con cui tutti l'annunciano ai TG e ai giornali radio. Trovate con larghissima abbondanza di pagine sui quotidiani di oggi excerpta molto ampi delle atti giunti ieri per 300 pagine alla giunta dell'autorizzazione a procedere in relazione a una richiesta di perquisizione collegata a un ragioniere, un funzionario dei gruppi controllati dal Presidente del Consiglio, che viene sospettato da parte del Procuratore di Milano di essere uno degli agenti pagatori di questo giro di prostituzione. I reati sono collegati alla prostituzione, reati per cui sono indagati una consigliera regionale, Nicole Minelli, Lele Mora, Emilio Fede e il Presidente del Consiglio. Tentiamo oggi, per favore, di non entrare assolutamente nei dettagli che abbondano per pagine intere, pruriginosi, visto che è una vicenda in cui si accusa appunto di prostituzione, di fare sesso in cambio di denaro, case, soldi, pacchi di 500, di banconote di 500 euro, offerte di lavori, case. Io non do giudizi sui costumi di queste ragazze, li trovate nelle trascrizioni telefoniche. Il problema che ci dobbiamo porre è di tre ordini, in altre parole. C'è un problema che riguarda innanzitutto la politica, e quindi chiedo a chi ci telefonerà di sapere se secondo voi siamo al di là di ciò che politicamente non pensate voi individualmente, perché su questo i giudizi sono soggettivi, ma di quello che pensate dopo 16 anni sia la soglia oltre la quale si verifica qualcosa. Cioè, se il Presidente del Consiglio non regge più, perché tante volte è il caso da Dario, è il caso di Noemi Letizia, e poi si è visto come andava a finire. Questa volta, secondo voi, politicamente siamo una soglia oltre la quale non si regge? Ecco, uno. Due, istituzionalmente, al di là del giudizio politico, ma istituzionalmente, di fronte ai tempi di questa procedura, questa è una procedura che ha tempi brevi, quella che è richiesta alla Procura di Milano, rispetto alla condizione che si è creata dopo la pronunzia della Corte sul legittimo impedimento, istituzionalmente è possibile formulare delle opinioni che corroborino anche il lato politico? La prima domanda. Questo secondo aspetto, quello istituzionale, che cosa ci induce a pensare che avverrà? E poi, insomma, le conseguenze politiche viste da un punto di vista più ampio. Ma innanzitutto fermiamoci su queste due prime domande. Politicamente cade? E istituzionalmente che cosa avviene? In che condizioni siamo? Ecco, io mi limiterei a questo, poi ciascuno è libero di dare tutte le valutazioni morali, personali, sul livello di gravità di psicopatologie, sul fatto invece se la magistratura, dopo aver provato per centinaia di volte su altre vicende, metta nel mirino questa, perché tentando a demolire fin dalle fondamenta l'ego, che è una delle caratteristiche fondamentali della credibilità di Berlusconi, e anzi a colpirla proprio in questo sesso per denaro, che in definitiva è poi l'avveramento delle parole pronunciate nella prima lettera dalla signora Veronica, quando, ricordate, disse malato curatelo, quando disse le vergini che si offrono al drago, eccetera eccetera. Tutto ciò fa parte di considerazioni non esattamente secondarie, perché in realtà il giudizio sull'operato della magistratura in questa vicenda ricade nella sfera istituzionale, e la difesa dalla magistratura ricade nella modalità della politica con cui Berlusconi e il centrodestra hanno affrontato questi 16 anni. In ogni caso difficile nascondersi che questa volta le parole che escono fuori da questi dialoghi tra ragazze, la Rubi che chiede i 5 milioni, i commenti tra Fede e Mora sul prestito a Mora, insomma, descrivono un'atmosfera, un quadro, un rapporto di relazioni, una modalità. Ci sono elementi penali? Questo non spetta a me dirlo, ma insomma il quadro è quello che è. Allora, abbiamo come ospiti in questa prima parte il direttore del Tempo Mario Secchi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Mario. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E il direttore del Riformista Stefano Cappellini, il cui titolo di apertura di oggi ho scelto come puntata della trasmissione Stranamore, appunto un omaggio certo a Cuba più che alle cronache quotidiane di oggi. Buongiorno Cappellini. Buongiorno a voi. Allora Cappellini, lei oggi scrive un fondo in cui dice ci sono tre ragioni per cui in realtà il Premier non può reggere. Sì, due in realtà, perché la terza è l'unica per la quale forse potrebbe pensare di andare avanti, che è proprio l'aspetto penale. Cioè io penso che a dispetto di questa orgia di intercettazioni verbali, ricostruzioni giudiziarie, secondo me non esiste ancora, vedremo se arriverà dopo, la prova provata che si sia consumato il reato che i PM di Milano attribuiscono a Berlusconi. Siccome io credo che il garantismo vada applicato sempre a tutti senza distinzioni, io credo che quindi la presunzione di innocenza continui a giocare. Che a ricordiamo, i reati che riguardano Berlusconi sono prostituzione minorile, e questo riguarda il caso Rubi, e concussione per induzione. Concussione, anche se insomma in questo caso mi concentro soprattutto ovviamente su quello che sta creando il maggior danno politico, insomma, che è quello chiaramente legato al presunto rapporto con la ragazza all'epoca minorenne. Io credo che non ci sia ancora la prova provata, certo. Si può dire c'è la logica, il buon senso, si possono dire tante cose, ma la giustizia non funziona con la logica e col buon senso. La giustizia funziona quando, soprattutto una condanna funziona quando viene provata la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. A mio giudizio non siamo in questa situazione. Quindi dal punto di vista penale in realtà forse questo è l'unico versante sul quale Berlusconi ha ancora qualche arma. Io credo che però dal punto di vista, proprio per tornare anche alle domande che facevi tu, dal punto di vista politico, dal punto di vista etico, userei questa espressione più che morale, perché mi sembra giusto non ergersi mai ad arbitri dei costumi altrui. Credo invece che su questo Berlusconi abbia molto da perdere e sia giusto insomma invocare un suo passo indietro. Perché? Perché non c'entrano i PM nei Sexgate che lo hanno coinvolto. Questo è un punto molto importante da chiarire. Il caso Noemi, la vicenda D'Addario, adesso l'affare Rubi, sono tutti casi che nascono non sulla scrivania di un PM, sono casi che nascono, il primo perché una giornalista si accorge che c'è una strana festa accasoria nell'agenda del Presidente del Consiglio, nel secondo caso c'è una signora, la signora D'Addario, che a un certo punto rilascia un'intervista al Corriere della Sera spiegando cosa è successo tra lei e il Presidente del Consiglio, e lo fa dicendo esplicitamente che è una sorta di ritorsione per non aver ottenuto quei favori personali che si aspettava in cambio della sua relazione col Presidente del Consiglio. L'affare Rubi non nasce anche qui dai PM, da un Berlusconi intercettato, nasce da un Berlusconi che improvvisamente, con grande solerzia, chiama una notte in questura a Milano per occuparsi del caso di una ragazzina minorenne fermata per una vicenda di furto. Nessuno di questi casi è un fascicolo giudiziario inizialmente, sono casi che nascono dalle abitudini del Premier, sulle quali, ripeto, non si tratta di esprimere giudizi morali, ma che sono abitudini, a mio giudizio, incompatibili con l'attività di Presidente del Consiglio, perché un Presidente del Consiglio, non solo per una questione di immagine, che pure non è poco, penso che se ne possa convenire, ma anche per una questione di sicurezza nazionale, di non ricattabilità, non può tenere un certo tipo di stile di vita. Ora, mentre io credo che non sia provato appunto il reato, e vedremo se lo sarà, penso invece che sulle abitudini, sugli stili di vita del Premier abbiamo accumulato ormai un numero di informazioni sufficiente a definirlo incompatibile con il mantenimento della carica. E quindi da questo punto di vista una risposta c'è già, ed è difficile attribuire ai PM, questa volta alla persecuzione dei PM, il fatto che sia esploso questo caso, anche perché non si può rimproverare ai PM di aver indagato sulla vicenda Rubi, no? O di avere poi indagato sulla vicenda D'Addario successivamente, perché insomma i PM questo devono fare. Si può dire non lo fanno in altri casi, possibile, magari l'obbligatorietà dell'azione penale con Berlusconi è sempre obbligatoria, per usare un paradosso, e con altri no. Ma insomma, questo non è un buon argomento però per dire che i PM avrebbero dovuto astenersi. E per chiudere, per tornare a un punto di vista strettamente politico, io credo, questo però è più un giudizio mio personale, che da quando proprio è esploso il caso Noemi, quindi stiamo parlando di quasi 2 anni fa, questo governo fondamentalmente ha smesso di operare, perché è stato travolto poi anche dalla divisione della maggioranza, che comunque affondano anche in quelle vicende, perché io non credo che il caso Fini sarebbe esploso come esploso se prima non ci fossero stati i casi Noemi e D'Addario. E penso francamente che difficilmente possa governare un paese, occuparsi delle questioni importanti, delle riforme, un premier che verosimilmente nelle prossime settimane dovrà occuparsi di tutt'altro, dovrà parlare al paese per spiegare il bunga bunga e tutto quello che sappiamo. Quindi credo che proprio per le due ragioni dette, cioè etico-politiche, Berlusconi debba fare un passo indietro, e di sicurezza nazionale, come ho spiegato prima, che non è un alibi, ma è una questione molto seria. E debba fare un passo indietro, e non per la questione penale, sulla quale invece secondo me in questo momento ancora è giusto, sacrosanto, attribuire una presunzione di innocenza e riconoscere che ancora non esiste la prova definitiva della sua colpevolezza. Oh, mi ha colpito, devo dire, oggi leggere su Libero a questo proposito. Due cose che, in relazione a quello che temi che adesso trattava Cappellini, perché uno degli articoli che mi ha colpito di più in ordine al fatto se sugli atti vi sia la cosiddetta pistola fumante è quello di Franco Bechis su Libero, quindi stiamo parlando, insomma, del giornale diretto da Maurizio Belpietro, avendo come direttore editoriale Vittorio Feltri, che è il fondatore. E se uno legge con attenzione il pezzo di Franco Bechis, dice che negli atti la pistola fumante c'è, ne indica anche la pagina, pagina 82 delle 389 inviate alla Camera dei Deputati. E poi la seconda cosa che mi ha colpito su Libero è l'articolo di Giampaolo Pansa, al quale risponde affiancati, e anche la scelta di fare i due editoriali affiancati di Libero vorrà dire qualche cosa, perché vorrà dire che non c'è una tesi difesa solo a spada tratta, perché Giampaolo Pansa si pone la domanda esplicita, la stessa da cui partiva Cappellini: può governare un premier bloccato dai pubblici ministeri? E la risposta di Pansa è no, non può più, è inutile fingere di girarci intorno, troppi errori, il Presidente del Consiglio si dimostra non si riesce a trattare un'agenda politica istituzionale quando l'assedio è di questo tipo, oltretutto condotto su questi temi, è condotto con una tale dovizia di argomenti autoofferti dalle intercettazioni che Giampaolo Pansa replica di no a questa domanda. E Maurizio Belpietro a fianco, prendendo molto sul serio lo spessore, la densità degli argomenti e delle critiche di Giampaolo Pansa, deve riconoscere che gli errori del Presidente del Consiglio ci sono e sono belli seri. Dopodiché la conclusione di Maurizio Belpietro è dire: vedi caro Giampaolo, io non penso che Berlusconi sia insostituibile, penso solo che non sia sostituibile da chi da 20 anni si candida a buttarlo fuori gioco senza chiedere il permesso agli elettori. E quindi quello che si obietta è proprio che o di riffa o di raffa, non sia più per i calciatori o per Mediaset in Spagna o per il caso Mills, ma sono sempre comunque le procure a dare la spallata. Ed è però questa una risposta che mi ha molto fatto riflettere, perché d'accordo, dire no al fatto che sia la magistratura e non la politica, non le elezioni a scegliere chi governa, però vedo che mancano oramai gli argomenti di fondo per dire: ma di quali errori parlate? Ma no, ma non è vero, il premier è totalmente in grado di controllare l'agenda. E quando iniziano a mancare anche nei suoi più convinti sostenitori, bisogna in qualche maniera riflettere. Che ne pensa il direttore del Tempo Mario Secchi? Eccoci qua. Allora Oscar, ho ascoltato con grande attenzione le cose che avete detto. Stiamo ad Alice nel Paese delle Meraviglie però. Perché posto che Berlusconi... Adesso non ti far dire che tu sei un meraviglioso gatto del Cheshire, perché se ne sei l'impersonificazione. Siamo ad Alice nel Paese delle Meraviglie, soprattutto per le cose che ha detto Cappellini. Cioè, Cappellini praticamente sta sostenendo l'autocombustione di Berlusconi, perché di questo si tratta. E non invece quello che è palese... E con questo non voglio dire che il Presidente non abbia commesso molti errori, se uno legge il mio giornale, il mio fondo di oggi lo vede dalla prima riga. Hai fatto un titolo 2 giorni fa che ha fatto perplimere l'Italia, eh? Vogliamo ricordarlo un secondo? cercano un filo. Beh, quello cercavano, no? Qualcuno dice che l'hanno anche trovato, per cui vediamo. Vabbè, allora dicevi. Dicevo, Alice nel paese delle meraviglie e autocombustione di Berlusconi. In tutto questo pare che un problemino che si chiama magistratura non esista. Perché è tutto vero quello che avete detto adesso, e cioè che c'è il problema della governabilità, che c'è un problema di stabilità, che l'agenda del governo è ovviamente condizionata in maniera pesante da tutto questo e non sappiamo se il Presidente del Consiglio ce la farà. Però non diciamo un'altra cosa, e cioè che comunque la selezione della classe dirigente di un paese è il fatto non secondario che un paese che un governo possa stare in carica o meno, non lo decide la magistratura di volta in volta, facendo la pesca a strascico su tutti quelli che girano intorno a Berlusconi. Perché di questo si è trattato. Non si è costruita, diciamo così, un'ipotesi di reato certa, ma si è fatta la pesca a strascico per costruire poi l'ipotesi di reato. E questo è il vero tratto inquietante di questa vicenda. E guardate che non lo dice un pericoloso berlusconiano, non lo dice solo Secchi, ma lo diceva in un fondo in un editoriale, purtroppo non era in prima pagina, ahimè, bellissimo, Piero Stellino ieri sul Corriere della Sera, come no, il quale poneva in evidenza il pericolo che corre un paese in cui le libertà individuali vengono di fatto sottoposte a monitoraggio. Quando dico monitoraggio, dico che questo che questa azione non è casuale, ma vengono scelti gli obiettivi, i cosiddetti anche avversari politici, e quindi vengono di volta in volta scelti o coloro che devono governare o coloro che devono essere fatti fuori. Questo, signori cari, è un vulnus per la democrazia. E quando si dice che che c'è uno scontro tra poteri, io aggiungo che siamo in realtà a una cosa in più. Non c'è uno scontro tra poteri, ma siamo a un ordine, perché la giustizia è un ordine, che si fa potere e si sostituisce al vero potere che dalle mie parti continua ad essere quello legislativo. È chi fa le leggi che ha il potere. E questo, diciamo, in linea di principio, e non mi paiono cose sulle quali si debba tacere. Perché io vi ricordo che nel 1992, quando ero già un cronista e seguivo le cose di Tangentopoli, Mani Pulite, eccetera, il clima era esattamente lo stesso, cioè da fine di regime. Ve lo ricordate? Te lo ricordi, Oscar? No, io me lo ricordo bene. Ecco, me lo ricordo bene. Io me lo ricordo bene, purtroppo. Me lo ricordo bene anch'io. Ci avevano promesso la rivoluzione. Poi l'abbiamo vista che cosa è stata la rivoluzione, era una finta rivoluzione, ed era una finta rivoluzione che mirava a mettere i postcomunisti, sui quali paradossalmente era appena caduto in testa il muro di Berlino, a metterli al potere. Tutto questo disegno, perché di tal disegno si trattava, diventa una barzelletta di fronte all'imprevisto della storia, e cioè scende in campo Silvio Berlusconi, che rovina tutto questo piano, vince le elezioni e inaugura 17 anni di ciclo politico in cui le elezioni le perde anche due volte. E quello è l'unico modo con cui bisogna sconfiggere il cavaliere, cioè con il voto. Che cosa è successo in questi 17 anni? Perché è bene riguardarcela indietro la storia, perché sennò qua facciamo veramente Alice nel paese delle meraviglie. In questi 17 anni è successo che abbiamo avuto un singolo uomo sul quale sono stati concentrati gli occhi di una fazione della magistratura. Abbiamo avuto un gruppo aziendale che ha subito migliaia di perquisizioni, una persona e tutto il suo entourage che è stato grigliato sostanzialmente dalla magistratura, e per cui sono stati spesi circa un conto a spanne 300 milioni di euro per incastrarlo. Andiamo avanti, vi rubo ancora un minuto. Non essendo riusciti a incastrarlo, a farlo secco, perché questo era il piano, a farlo secco politicamente ovviamente, sul piano del business, cioè tutti i processi intentati sulle attività imprenditoriali hanno fatto crack, hanno fatto splash, lo si è colpito sul lato debole, e cioè con i colpi sotto la cintola. E qui c'è stata una enorme ingenuità di Berlusconi, perché Berlusconi ha aperto la sua casa a tutti. Ora, mi fa sorridere, e non la devi aprire a tutti, perché quando diventi Presidente del Consiglio sei una cosa diversa, sei speciale, devi proteggerti, hai gli occhi di tutti addosso, hai dei nemici, perché in 17 anni ovviamente te ne sei fatti tanti, prima e dopo. E dunque, secondo te, venendo al punto, politicamente, istituzionalmente, succede qualcosa politicamente e cade, e istituzionalmente che cosa si mette in moto, oppure no? Visto che allora, dici ha commesso degli errori. Al di là del fatto di cui parleremo dopo, tema se chiama il cavaliere concussione, se invece Fini può fare quello che vuole, la magistratura no. Cosa, voglio dire questo, Cappellini dice una cosa grave, dice non c'è reato. Ma se non c'è reato non si deve dimettere, caro Cappellini. Però cioè, alta, Mario, sai meglio di me che esistono condizioni politiche nelle quali se uno non è più titolare della possibilità di fare politica dopo anni. Però insomma, io non interpreto io Cappellini, poi lo risentiamo. Ma intanto dici tu cosa pensi. Noi abbiamo un precedente che ci insegna tutto. Il precedente è che si chiama Bill Clinton, no? Allora Clinton, sappiamo che cosa è stato imputato, no? Sappiamo che cosa gli veniva rovesciato addosso, sappiamo che quella cosa lui l'ha anche ammesso e così via, eccetera, ma non c'era reato ed è rimasto al suo posto, è rimasto a fare il Presidente degli Stati Uniti. E quel tipo di relazione che lui aveva con la signora Lewinsky l'ha consumato nello studio ovale. Ora, voglio giustificare tutto quello che sta succedendo? No, ma io voglio dire che bisogna stare attenti. E vengo al punto della tua domanda, Oscar. Qual è la convenienza per il Paese? Perché di questo noi dobbiamo parlare. State attenti, perché quello che sta succedendo è una cosa enorme. Come glielo spieghiamo noi al blocco elettorale che ha votato Berlusconi, un blocco elettorale enorme, cioè la maggioranza degli italiani, che il signor Presidente del Consiglio finisce disarcionato per un'azione della magistratura che finisce sopra e sotto le sue lenzuola? Perché di questo si tratta. Ok, stop un secondo, pubblicità. Eccoci tornati in studio, pareri scelti con titoli flash pubblicati oggi dal Foglio, della redazione della comunità del Foglio, il giornale fondato e diretto da Giuliano Ferraro, sul tema delle notti di Arcore. Alessandro Giuli, vice direttore, sfugge in nome di quale ethos si processa al Cavaliere, il vero reato, millantata magnificenza. Umberto Silva, se il Cavaliere dopo tante puttanate ha trovato l'amore, mi congratulo con lui. Maurizio Stefanini, collaboratore sempre del Foglio, cerchiamo di fare gli americani ma siamo nati in Italia. Marina Valensise, troppi inquisitori fuori tempo, ma certo la sera sarebbe preferibile uno Stabat Mater di Pergolesi. Luigi Amicone, che è direttore di Tempi, meglio impazzire che volare con la magistratura nel nido del cuculo degli altri. Lanfranco Pace, collaboratore storico del Foglio, che sia un premier oppure un bidello deve poter menarselo come meglio crede. Stefano Di Michele, ex Unità, storica meravigliosa firma secondo me ed ex mio compagno di banco al Foglio, il titolo del suo ragionamento, del suo giudizio: a ragionarci bene le sue streghe shakespeariane ne esaltano la solitaria tristezza. Devo dire che di tutti questi accenti per il momento quello di Stefano Di Michele è quello che mi persuade di più, e credo anche che nella lettura delle intercettazioni, dei toni con cui le ragazze si commentano il Berlusconi notturno, di Berlusconi questa volta si sia fatto più male, molto più del consueto attacco dei magistrati, dell'accanimento, molto di più. Sì, questo tono di solitaria tristezza shakespeariana di Stefano Di Michele mi persuade come chiave interpretativa. Vediamo ancora Gabriel Marznev, che è un collaboratore del Foglio marocchino. La mia marocchina aveva 15 anni, io ho quasi 54, ma cosa c'entra questo con la politica? Assuntina Morresi, una donna, voglio conoscere per poter giudicare le abitudini sessuali della Boccasini. Andrea Marcenaro, il mitico compilatore quotidiano di Andreas Version, che ci fa sorridere da tanti anni, almeno a me personalmente. Bugiardacci sfacciati, noi vogliamo la favola, vogliamo Pretty Woman. Marina Terragni, cattolica, ci manca che un giudice pretenda di amministrare le mucose di chi che sia. Ruggero Guarini, la questione morale è l'ultimo rifugio degli stronzi, nichilisti e schiattamorti. Camillo Langone, ma non ho capito come mai stavolta l'elemora non si trovi dalla parte del torto. Una botta di ironia. Sentiamo qualche telefonata e poi torniamo ai nostri due direttori del Tempo del Riformista per commentare. Allora, iniziamo con Mario che ci chiama da Prato. Lei che pensa? Politicamente e istituzionalmente cade, non cade e cosa si mette in moto? Penso che sia una cosa estremamente buona, come ha detto poco fa il giornalista, che l'indagine della magistratura sostanzialmente... Caduta la linea, mi pare di capire che l'indagine della magistratura, tac! Ma lo faccia sopra. Aspetti, noi abbiamo sentito, mi sembra che l'indagine della magistratura riprenda di là perché il giudizio non abbiamo sentito. Sostanzialmente qui la questione non è che cosa il controllo della magistratura che fa da grande fratello su tutti i cittadini. La magistratura deve fare da grande fratello su chi scende in politica. Chi è in politica deve rendere conto del proprio comportamento. Noi stiamo facendo ridere anche, nel anche mondo erotico, sessuale, di tutto. Quello che è successo in America è falso, ciò che ha detto il giornalista poco fa. Il processo a Clinton non era perché faceva sesso con quella ragazza, ma perché ha detto il falso oppure no. La questione è: se un politico dice falso, come possiamo fidarci di lui? Noi dobbiamo avere le indagini su Sara Scazzi, su tutto quello che è successo nei cittadini, sui mezzi di comunicazione, e non dobbiamo avere quelle indagini a quel livello, come vediamo sui giornali, su chi fa politica, chi tocca i miei soldi. È fondamentale. Però, ho capito che lei vuole il rendiconto generale, però lei ha detto non è come in America, perché in America era perché aveva mentito. Quindi lei dice qua invece bisogna fare sul sesso. Dobbiamo fare chi fa politica e tocca i soldi dei cittadini. Chi fa politica e tocca i soldi dei cittadini. Ho capito, compreso il sesso? Ogni suo comportamento. Se lui paga le prostitute con i miei soldi, a me non va bene. Mia figlia non deve prendere esempio da lui. Questo è un altro paio di maniche, che Berlusconi usi i soldi pubblici con quelli che abbia, sembra un po' diverso come appunto. Però lei dice devono rendere conto di tutto e c'è un problema che riguarda l'esempio, e questo è un rispettabilissima posizione, molto chiara. Roberto ci chiama dalla provincia di Taranto, prego Roberto. Buongiorno dottor Giannino. No, ha ragione questo ascoltatore, sei chi non deve dare informazioni non corrette. Il caso Clinton è esattamente come l'ha descritto l'ascoltatore, giurava il falso. Ma non vorrei fare nessun accenno politico. Però scusate un secondo, perché sennò qui ogni volta dice sempre che non... Il punto è, non possiamo non vedere, il direttore del Tempo ha usato quell'esempio perché era un esempio in cui c'era, certo, il perjury, il reato che dite voi, ma la questione era sesso consumato in ore di lavoro alla Casa Bianca con una stegista, quindi stiamo parlando di qualche cosa che rientra in una sfera che intacca profondamente la credibilità etica, morale, la correttezza di un presidente sul luogo deputato a guidare l'America e così via. Adesso non mi potete dire è una cosa che non c'entra niente, lo dico esclusivamente per chiarire e non per polemizzare. Prego Roberto, continui. Solo è stato riportato male l'esempio. Comunque io volevo dire, senza fare moralismi, che veramente chi difende l'indifendibile dovrebbe riascoltare le tesi che sostiene. E poi una cosa che non vuole essere da moralista, ma io mia figlia a casa di un parente così non lo manderei. Vorrei sapere se chi lo difende manderebbe propria figlia di 20 anni a casa di un personaggio così. E questo è interessante perché oggi ci sono interviste a padri e madri di questo giro di ragazze che poi ambiscono a un ruolo nello spettacolo eccetera eccetera. Insomma, c'è una parte d'Italia che non trova niente di provevole, che intervistate sul comportamento delle figlie, e in particolare se poi le figlie sono la famosa fidanzata di cui abbiamo appreso l'esistenza due giorni fa da Berlusconi, dicono magari. Quindi sa, lei è così convinto che non vi sono degli italiani che la pensano diversamente da lei, Roberto? Roberto è caduto. Però, ripeto, una questione è cosa pensate dell'esempio per i vostri figli. Altro conto è politicamente e istituzionalmente che cosa avviene, perché sennò diventiamo un grande novero di recensori morali del comportamento, e questo io lo capisco e rispetto al fatto che c'è scuola per i propri figli, deve tentare. Io stesso, se avessi dei figli, gli direi, o avessi una figlia, gli direi che se pensi di farti strada così, vabbè, fai a meno, non dico di tuo padre, ma tuo padre tenterà di ragionare in tutti i modi per spiegarti che esistono altri sistemi. Però c'è un'Italia che è fatta del successo rapido, del successo in cui anche il sesso è una delle strade, e non credo che sia l'Italia di Berlusconi. Esiste da sempre. In Berlusconi questo carattere diventa pubblico, questo è il punto, e diventa un errore esibito, e la magistratura dice ti colpisco proprio lì perché forse quello è il punto in cui è più delicato il tuo equilibrio. Se spezzo quello, visto che sugli affari non ci sono mai riuscito, se spezzo quello forse viene meno questo nodo profondo che ti lega alla pancia, al cuore, alla testa del paese. Renzo da Milano, come la pensa? Beh, sì, buongiorno innanzitutto. Allora, si è parlato, l'ho appena sentito, l'ha detto lei stesso, noi vorremmo essere come gli americani ma non lo siamo, siamo made in Italy, no? Io sono perfettamente d'accordo e le do anche il motivo per il quale noi non siamo come gli americani, perché gli americani hanno quel qualcosa che 50 anni di cattocomunismo in Italia ha totalmente distrutto. Il senso della nazione, cioè l'americano, tanto per intenderci, fuori da casa sua c'ha la bandiera, quando i bambini entrano a scuola in qualunque stato degli Stati Uniti fanno l'alza bandiera e cantano l'inno nazionale. Questo si chiama amor di patria, un termine che in 50 anni il cattocomunismo proprio è stato totalmente distrutto. Guardi, lei avrà capito che io ho sempre simpatizzato per la destra, ho sempre votato per Fini, eccetera. Quello che è successo in questi giorni proprio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lei dice, e io voterò per Berlusconi, lo dico apertamente. Non avevo capito. Ecco, non è possibile che una persona che il 27 di ogni mese, un magistrato che il 27 di ogni mese va a ritirare uno stipendio che pago anch'io con le mie tasse, distrugga l'idea di nazione, cioè sputtani, mi scusi il termine, l'Italia nel mondo perché essere legata al dito con Berlusconi, non c'è altro motivo. Renzo, lei lo sa che c'è Renzo, lei l'ha detto, mi faccia obiettare, le voglio far rispondere. Lei lo sa che esiste un'altra parte del paese convinta radicalmente della tesi opposta, cioè che a sputtanare l'Italia, per usare lo stesso verbo, sia Berlusconi, che bisogna liberarsene a qualunque costo. No, attenzione, quello che fa Berlusconi sotto le lenzuola sono cavoli suoi, va bene? Io sto semplicemente dicendo che è talmente evidente, no? Che è talmente evidente che c'è stata un'azione mirata per colpirlo in fatti personali, che non penso che sia discutibile nemmeno questa tesi. E quello che io discuto è il fatto se lo possa fare una servitrice dello Stato che al 27 del mese prende lo stipendio e che poi magari passa la bufera e resta ancora lì per avere il prossimo appiglio magari tra sei mesi se Berlusconi chiarissimo, non cade. Chiarissimo. Non si può, cioè se un medico sbaglia una diagnosi, il medico ne paga di fronte alla legge, ma questa signora la devo correggere perché spesso nella maggioranza dei casi non è così, neanche il medico resta nell'ordine quasi sempre, anche quando ammazza la gente. Questo, come ne ho cognizione diretta, ce ne siamo occupati qui. Gli ordini non cacciano nemmeno alle sentenze, aspettano, tranne rarissime eccezioni. Ci siamo occupati dell'eccezione, cioè l'ordine degli ingegneri su Palermo, altrimenti aspettano le sentenze passate in giudicato. Certo, è garantismo, e talvolta però forse gli ordini dovrebbero fare qualcosa di più che il semplice garantismo, altrimenti bisogna fare come dico io, cioè abolire. Detto questo, la tesi dell'ultima chiamata era netta. Come vedete, il campo dei nostri ascoltatori è, tanto per cambiare, radicalmente diviso. Berlusconi divide e molti restano, anzi si aggiungono nuovi difensori, sembrerebbe, anche dal campo di chi aveva obiezioni politiche. Resta il fatto che se noi continuiamo per settimane, mesi e anni a occuparci solo di queste cose, il punto politico istituzionale su cui dopo la circolazione stradale chiederò di tornare a Cappellini e Secchi resta, perché continuiamo in questa guerra terribile. E però la politica, le istituzioni, l'agenda internazionale vanno altrove e noi sembriamo un paese di pazzi assoluti. Allora, l'opinione di Cappellini e di Secchi, ma insomma il gelo della Lega, l'allontanamento da Tremonti, che nei fatti insomma c'è da qualche mese tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, l'apertura di Casini che dice pronti a un Premier diverso e dicono, aggiungono dal terzo polo, ma in queste condizioni Berlusconi è debolissimo, non ci fa meno paura il voto, che opinioni vi fate di quello che politicamente, al di là del giudizio del merito che abbiamo tentato di chiarire su questa complicata vicenda, che opinioni avete? Cosa avverrà? Stefano Cappellini. Ma io credo che sia quasi inevitabile il ritorno al voto, devo dire che lo pensavo comunque anche prima di questa nuova puntata del Sexgate. Se mi consenti, ritorno subito sul tema politico solamente per certo. precisare una cosa, perché io credo che siano argomenti ovviamente dove è lecito dividersi in posizioni diverse che sono parimenti rispettabili, no? Però insomma, bisogna stare anche un po' attenti agli argomenti che si usa, perché certa propaganda berlusconiana, ne ho sentita un po' anche diciamo nei minuti precedenti, continua a parlare del consenso a Berlusconi come di una sorta di salvacondotto assoluto. Ora, io non discuto che Berlusconi resti il leader legittimamente eletto dagli elettori e penso addirittura che persino in queste condizioni potrebbe avere qualche chance di vincere se torniamo al voto. Ma non è che l'arma del consenso... Ah, tu lo pensi tu lo pensi ancora? Anche dopo questo? Io penso che se si va al voto in queste condizioni, comunque con un'opposizione che certo non è in buone condizioni... Fantastico, no, ho capito bene, d'accordo. Appunto, credo che sia abbastanza oggettiva la possibilità che persino questo Berlusconi abbia qualche chance, ma dicevo appunto, non è che l'argomento del consenso può essere brandito ogni volta, no? Come salvacondotto. Ma perché ci sono delle situazioni che vanno valutate per quelle che sono, per i loro risvolti politici, istituzionali, cioè altrimenti voglio dire è un discorso veramente tra ciechi e sordi, no? Perché se no bisogna ragionare sui fatti. Allora, i fatti sono che avvengono nelle residenze private del Premier delle feste sulle quali non è che si esprimono dei giudizi morali, perché da questo punto di vista è del tutto ovvio che ciascuno è libero di avere le proprie abitudini sessuali, ma un Presidente del Consiglio è meno libero degli altri, perché un Presidente del Consiglio ha degli obblighi verso il Paese di rappresentanza, di sicurezza e non solo, che non possono da questo punto di vista legittimare un certo tipo di stili di vita. Cioè è una questione che non riguarda le intercettazioni, la magistratura, e lo dice uno che sul suo giornale ha scritto all'epoca del dibattito sul DDL intercettazioni, in netta controtendenza rispetto alla stragrande maggioranza della stampa di destra e di sinistra, che quel DDL era un DDL che conteneva delle parti assolutamente condivisibili, perché è del tutto evidente che si fa un abuso delle intercettazioni in questo paese, ma qui non stiamo parlando delle intercettazioni, non stiamo parlando del Grande Fratello, stiamo parlando di abitudini incompatibili con una carica come la Presidenza del Consiglio. Questo secondo me deve essere chiaro, perché altrimenti veramente parliamo come un disco rotto. Sì, però aspetta Stefano, dal punto di vista, adesso questa osservazione da tecnico, dal punto di vista di ciò che ci consente di parlarne, ne parliamo in quanto ci viene servita un pacco alto così di intercettazioni che sull'ipotesi di reato che riguardano esclusivamente la carima, come si chiama, Ruby, eccetera eccetera, in realtà il pubblico ministero, che sa bene come si fa, ha messo sotto l'obiettivo una batteria di 25 ragazze e da quelle parole di quelle ragazze noi abbiamo lo spaccato, quindi attenzione, noi lo spaccato in realtà di come Berlusconi conduca la sua vita eccetera eccetera ce l'abbiamo da anni squadernato sotto gli occhi. In realtà il pubblico ministero ce lo dà, perché su una fattispecie di reato che riguarda la minorenne le intercettano le minorenne. Aspetta, perché questo proprio... Io poi sono d'accordo che oramai non sono anch'io stanco di questo tipo di obiezioni, però è un aspetto che capisci che chi brandisce questa cosa dice che ha la sua importanza, perché detto questo tu dici elezioni. Che dice invece Secchi? Lo scopriremo al volo, perché prima abbiamo Michela da Torino che ci ha chiamato, e altrimenti poi non mi dispiace che taglio sempre troppi ascoltatori. Michela, lei che pensa? Buongiorno a tutti. Ma voglio dire velocemente che l'ascoltatore di prima, che in America, voglio ricordare che in America chi truffa lo Stato finisce in galera e paga pesantemente, se dimentica di dire questo. Ma al di là di questo, io ritengo che effettivamente questa questione ognuno si faccia l'impressione che vuole, perché poi dopo credo che gli italiani sono grandi e vaccinati per giudicare cosa è successo. Ma questo praticamente nasconde la dichiarazione, secondo me, più grave che è successa quando c'è stato il referendum di Mirafiori, e cioè la ritengo molto grave quella. Aspetta, cosa c'entra adesso Mirafiori? Le spiego, se mi lo lascia dire, sì, visto che ecco, dico, dire che un imprenditore se non ha un consenso fa bene a chiudere e va all'estero, credo che sia molto più grave, gli italiani dovrebbero saperlo, è molto grave. Lei dice Marchionne è peggio di Berlusconi, la fermo, d'accordo, perché è legittimo pensarlo, ma non è il tema della trasmissione di oggi, tanto su Mirafiori ne abbiamo parlato e ci torneremo. Secchi, si va a votare? Prima di darti la risposta su questo, Oscar, ma si fa un guazzabuglio pazzesco. Cioè, ma la gente purtroppo vedo che c'è molta confusione. C'è molta confusione. Cioè, sì. Non si capisce che siamo di fronte a una cosa enorme. Che non è la barzellettina delle paginate di intercettazioni in gioco. Non hanno capito niente di che cosa c'è in ballo. E sono veramente stupito e anche un po' stufo, devo dire, di come viene trattata questa faccenda. Vedi che l'insistenza del Partito Repubblico alla fine crea la confusione ma ottiene l'obiettivo, perché Berlusconi difende indifendibile agli occhi dei suoi. Questo è il problema, è un altro. Il problema è: se sopravvive il governo, ma a cascata, siccome stiamo parlando di 17 anni di storia italiana, e cioè di un fatto che ha profondamente modificato la cultura del paese, e cioè di quella cosa che si chiama berlusconismo, a cascata c'è se tiene o no la coesione sociale. Quando io dico, attenzione, chi glielo spiega al blocco sociale che ha votato Berlusconi, che è consistente, vorrei giusto ricordarlo così, che il suo leader casca perché si è dato troppo da fare sopra e sotto le lenzuola, secondo i magistrati, chi glielo spiega? Sto mettendo in guardia le istituzioni e le persone che dovrebbero guidare questo benedetto paese dal semplice fatto che se andiamo a una frattura sociale di questo tipo, tutta la divisione tra Guelfi e Ghibellini che abbiamo visto finora sarà una barzelletta rispetto a quello sì. che succede ecco, dopo. E su questa conclusione, che anche secondo me è quello che ci aspetta tra poco, con l'unica obiezione per vedere quanta stanchezza prevarrà, chiudiamo questa trasmissione. È ovvio che abbiamo semplicemente constatato come la radicalità delle visioni resta di fronte anche alle notti di Arcore. Concludo la trasmissione con una nota all'altra. Aveva 30 anni, faceva il commesso a Ragusa, licenziato per 5 euro, si è impiccato per la vergogna. Altre parole, non servono solidarietà a questo, che io non dimenticherò. Impiccarsi per la vergogna per 5 euro è molto brutto, molto brutto, molto brutto. Questa è l'etica, anche in piccolo, attraverso questo dramma di cui c'è bisogno. E io, guardate, non lo commento perché dico che la lenzuola non è lenzuola. So anch'io che 16 anni sono 16 anni, però santo Dio, dateci un paese un minimo più appassionante. Tutti. Grazie a Mario Secchi, grazie a Stefano Cappellini. Appuntamento a domani, linea al giornale radio.